faccio tante operazioni, ma non quelle cardiache. Sì, meno male, no, grazie, iaia. E allora, lisci, che te mi contas? Allora, te la conti, tu là. Stavo combinando sardine. Sardine stavi mangiando, eh? E come le hai fatte, arrosto? Arrosto nella piazza elettrica. Non me ne esco. Che cazzo sei, scuola bene, c'è una piazza elettrica che è favolosa. Non l'ho mai pagata, figurati. E allora va ancora meglio. Già lo credo, ma escono anche buonissime. Ma la carne è fatto così. Capito? Una parte da poi, 5 euro, mi chiedo di sardina. Ci fanno puzza in casa. No, fanno puzza in casa con la pianta. Niente, anche perché l'ho fatto in garanzino. Capito, sono sceso a casa di mamma, mi aveva lasciato mezzo chilo a loro e mezzo chilo mi sono mangiato io. Alla sur. E la tua ragazza non le mangia? Ma io sì, mo l'abbiamo mangiato mezzo chilo. E voi, come si è mangiato fagiolini? Tanto quei fagiolini ricco sono micidiali, sono molto più buoni di quelli di cose, costano poco. Un chilo, 1,35 centesimi da dico. Sono fagiolini freschi appena comprati dall'orto, sembrano. Surgelati. Già sono buoni, perché li surgelano appena raccolti, quelli non è che li fanno diventare appassiti, no? Li fanno subito. E quindi escono buoni, conservano il sapore. E poi i fagiolini non si fanno bulliti, quindi meno male, la procedura dell'acqua c'è sempre, bulliti un po' di sale, e poi si fanno insalate, così li fai. Sì, vabbè, il sale lo metto dopo io che è meglio, perché nell'acqua come mettere appena appena quando si mette l'olio e l'accento, e il sapore diverso. Io li condisco, prima li faccio scolare, li raffreddo, tutto quanto, quando li metto in frigo poi escono belli freschi, ma li faccio colori e l'accetto. Ma sono buoni, cioè. Io ho assaggiato, guarda, vi dico, un chilo, 1,35 centesimi sono regalati, in confronto a 1 euro quelli di Eurospin, che sono 500 grammi, però sono, fanno schifo di sapore, capito? Questi erano veramente buoni. Sono più come poi c'è minestrone, un chilo di minestrone, un euro, grazie. Su queste cose, bisogna vedere sia la qualità che il prezzo adesso. Bisogna controllare un po' tutto, ma soprattutto il prezzo di... C'è gente che fa pagare le cose alle stelle. Se non stai attento a queste cose, non ti passano i birri di nato. Io lo so, infatti ho visto che si è alzando adesso. Le pizzette che pigliavo io, 4 pizzette, 1,29€, adesso costa 1,45€. E perché ha visto che sta aumentando, è sempre pieno, però anche loro si devono dare una pinzata, perché se il cliente vede che aumenta, poi preferisce comprare la roba di marca e si rimanda, e fanno fine brutto. Cos'è invece per loro? Adesso devo aumentare la birra, il vino, ma lo sembra. La bella latina è costata 45 centesimi, io so che birra, acqua solforosa, anzi acqua di sabattino mischiata con la birra. Ma quanti gusti. Allora, è meglio la birra limonata di cose di... come si chiama, non vi dico, dell'Idol. Ma a volte ci sono offerte Ignusa, Dreher, tutte birre buone, che costano quanto quelle lì, quando sono in offerta conviene comprarsene un po' e via. Perché però sono birre come si deve, dai. Io faccio la Dreher, 85 centesimi, qua vicino alla Convent. Ho visto ieri, ho pigliato le sardine ieri, 4,99, fresca, fresca, fresca. È un buon prezzo, ma la sardina si vede subito, se non è fresca c'ha gli occhi rossi, te ne accorgi da quello. Io me ne accorgo, sì. E uno dice che se non va bene te ne accorgi subito. Quando va nei occhi rossi, la lasciarle stare perché non sono fresche. La salvina per essere fresca deve essere bella, dura ancora e non da moda che si sfarina tutto quando la cucini. Deve essere bella secca, bella dura e con gli occhi vispi. Nell'ospizio ho trovato una volta così, per carità, gli ho creduto quella di ieri, la prossima volta gli ho detto la spalle, una cosa del genere. Noi una volta ci stava al cazzo, mia moglie mi ha detto, lo proviamo a provare, gazzuccio, non l'avevamo mai cotto. E io proviamo, vedo questo gazzuccio come lo svolge dal pacco, le toglie, questa cosa non è fresco. C'è puzza di ammoniaca, boh, è strano. Puzza di ammoniaca e mia moglie, che io non le cucino nemmeno, io che glielo riportiamo indietro. Siamo tornati, e ho detto guardi questo pesce, se è pesce da vendere questo qua. E mi ha detto, ma no, mettono l'ammoniaca per conservarlo, sì, ma non me ne frega nulla, c'è una puzza, ma si vede l'ammoniaca, se è messa dosata bene non dovrebbe fare questo duraccio. E lui mi ha detto sì, in effetti ne hanno messo troppa, e vabbè, vediamo adesso se li fanno un buono, no, vediamo un cavolo, o mi fate il buono o sto chiamando subito la finanza. E a Vinici mi hanno fatto il buono per consumarlo, in qualsiasi cosa io voglia posso andare e pagare con quello. Sì, fatto bene, a me è successo una volta con la patrofona, è successo, avevo comprato la patrofona dello spin, quando abitavo in via San Donato, ho detto, ubriate va qualcosa in quattro forno, ho detto, se no, ho detto, sto chiamando in asse. E però ci sono tre, mi hanno cambiato. Sì, ma tanto stavamo facendo già la parte grande, no, ma è così, no, non è così, non è come ti dici tu. Io ci sono messo al commercio, non ho capito. E un'altra volta mi è successo al mercatone, però lì l'ho chiamata davvero la finanza. Al mercatone sono andato e ho fatto la spesa e mi sono accorto che le mozzarelle che c'erano nel banco erano scadute. E ho preso quelle che c'erano in fondo, che praticamente erano quelle più fresche, e ho preso tre e poi arrivati al coso, alla cassa, gli ho detto guarda che ci sono delle mozzarelle scadute nel banco, toglietele perché se c'è qualche controllo, cazzo mi ha guardato male, come dire, cosa di nafuti. E vabbè, lì non c'è stata anche. Poi in mezzo alle mozzarelle che ho preso io c'era una che aveva preso il sottolo, che praticamente era asciutta, non c'aveva l'acqua dentro. E ho detto guarda, questa qui la cambio perché me l'aveva già battuta, e ho detto oh, questa la cambio perché non serve, vabbè. Sono andato, ho controllato bene, l'ha dato tutto quanto, andava bene, me la sono presa, arrivata a casa, questo qui mi aveva battuto, invece che una mozzarella, due, capito? Ah, sono tornato indietro, non per la mozzarella in sé, ma per la biliade in giro. Sono tornato indietro e ho detto, guarda che mi ha battuto la mozzarella in più. Ma il collega se n'è andato, a me cosa me ne frega? Cioè, se sei andato il tuo collega, a me mi ha battuto la mozzarella in più e subito nei soldi, non è bastato quello. E ha detto che ritornare domani mattina, tu ti pare che io consumo la benzina, vedi la carica domani mattina e non vado a lavorare per far piacere a te, secondo te? E mi ha detto io non posso farci nulla, ho preso e sono andato di coso, che c'era vicino a casa prima, adesso non c'è più. E ho chiesto di parlare col direttore, il direttore era lì e gli ho spiegato la situazione, anche se il direttore ha fatto avanti a me, l'ha fatto un ringraziato, ha detto poi ci vediamo. E poi gli ho detto, oltretutto c'erano delle mozzarelle scadute, gliel'ho segnalate, e ha avuto il coraggio di farmi una faccia brutta invece di ringraziarmi, capito? Ah così, aspetta che lo chiamo io. Ora ci ha mandato, grazie un ringraziato lei che l'ha fatto. Ha detto, adesso soldi al signore li ritorno io, poi mi riprendo dalla casa vostra. Comunque, la prossima volta ricordatevi che sono i clienti che a voi vi fanno lavorare. Se ha fatto un ringraziatone, le bacia dove sta grande un gamba. Perché se ne è smarto, aspetta un attimo che mi hanno chiamato al telefono e arrivo subito. E avanti la portata, la portante d'oro. Successo. Poi non sono accurato le macchine che mi ha non riuscivo a muovermi mal di schiena, mal di petto, ieri no, ma forte, ho preso freddo ieri. E a che livello ti faceva male il petto? Un bel, schiena, petto, tutto mi faceva male, ho preso anche il rene, quindi ho pigliato una bella passata di freddo. E dove sei, sul tetto? No, sono uscito a fare un lavoro, perché sono stato un imbecille io, capito? Lo sai che io, a me è una malattia che ho io, e io preferisco avere i soldi subito e basta, e invece ho fatto la cazzata. E non ti piano i soldi e poi ci li metto in... E come quello cazzo che va, e ci li metto in benzina, certo. Ho fatto una forzata, fatto. Molte volte quando ne hai bisogno non pensi ad altro, pensi solo che hai bisogno di soldi via e ti abbassi a tutto. Infatti io ho fatto così, sono andato e ho fatto il lavoro e poi ci abbiamo dovuto, a parte sono sceso in magliettina, sono sceso, c'era il vento, si è chiamata l'antenna e mi ha abbiato un vento, figurati, non se ne siamo messi a dormire il cortisone. Nelle mani, nel letto non c'è più niente, solo le mani, cazzo. Ma anche tu il giubbottino te lo potevi mettere, allora, è colpa anche tua che non ti hai messo qualche cosa di più pesante. E oramai non siamo più ragazzini, no? Io mi metto in mezzo perché anche io molte volte ho dei dolori allucinanti. L'altro giorno senza stare in casa, manco a prendere freddo, a dire che ho preso freddo, ero in casa. E lo sdraiato sul divano, cazzo, mi viene questo dolore alla gamba, non potevo sopportare. Poi dopo un po' ci ho pensato, ho detto va, prendo l'occhio perché non ce la facevo più. Mi ho preso l'occhio e mi è passato. Grazie a Dio poi non mi è più tornato. Ma deve essere la postura che ho usato magari come lo sdraiato e cosa mi ha fatto venire questo dolore forte, ma l'ancinato è proprio da non poter stare. Sì, succede. No, io peccato ho preso freddo perché stavo installando la parabola, poi ha cominciato a piovere, mi sono bagnato, le magliettine, poi ho dovuto aspettare il tram, lo sai, per la sette che aspetti di fronte a pronto soccorso, è un casino. Sono andato a casa, anzi prima di arrivare a casa sono dovuto andare a fare la spesa, poi da lì pigliare la 5, quando sono entrato, cazzo, ho preso la 5, non so come cazzo abbia fatto, mi piego per prendere la posta dall'esterno, cazzo, ma appunto questa per non capire dove cazzo sia entrato, due volte ma appunto, preso, l'ho tolto la maglietta, c'è un direttore l'ho pietro schiacciato, ma per due volte sono sentito subito la cosa del fratello, mi sono pigliato là e me lo sono passato. Un dolore non te ne dico nulla. Ma la sorda, già lo so che fanno male, sembra che ti mettano un accendino vicino. Non lo so dove cavolo sia entrata, non lo so, è bello quello, io stavo aspettando il tram, ero con la magliettina, c'era per la pena del vento, e non so se l'ho preso io o se l'ho preso dentro qua la vita, e forse come ho seduto è entrata dentro, cosa cazzo ne so, quando mi sono piegato per prendere la posta, ma appunto cazzo. Se non fossi piegato sei entrato tranquillamente con la vespa in casa, cazzo. A me una volta sai cosa mi è successo? Stavo guidando. E deve essere che non capisco come sia successo, ma mi è entrata nei pantaloni e mi appunto proprio dove c'è il polpaccio lì, ho avuto una montura, per poco non esco fuori strada dal dolore. Ma la cosa era insegnata, ho fatto tempo a fermarmi, non mi potevo togliere neanche i pantaloni perché è in mezzo alla strada. E più la muovi e più ti punge, capito? Il fatto è quello. Quando la muovi ti punge anche da altre parti. Quindi ho fatto per la terra sotto i pantaloni che se ne legge un messa da legge che comunque però l'ho ammazzato. Era un app lo stesso. Sicuramente mi è entrato dalla maglietta e se ne so. Ti fate un punto e pisello, solo stai 3 giorni a vento, stai cazzo. Perché era l'infoma adesso. Ui, ebbene. Graziano. Ah, ben sentito. Ciao Antonello. Ciao, grazie, salutori. I mari dell'inverno, so, adesso che questo cazzo di api e mezzo sono tirando le balle perché cazzo non c'hanno da mangiare, non c'hanno da bere, cazzo è soia. E rompono i coglioni, cazzo. Io quando mi affaccio alla finestra a fumarmi la sigaretta, mi metto a portata di mano la mazza mosche, no? Quella specie di battipà. E come ti vengo che arrivi un'ape, una mosca, la lago, gara, come ti dica la vostra secca? Beato te, io invece cosa facevo? Le potevo entrare una cosa del genere, cazzo. Chiamo due buste piene di lattine, se devo sapere, non solo per me, anche per mio fratello. E come mi sono piegato per andare a prendere la posta, capito? Perché mi è caduto le cose in terra. Come mi sono piegato, appunto nel ruolo, sembrava che è toccato quello, l'ho toccato di. Ho preso la maglietta, mi sono subito sollevato la maglietta, non me ne fregava un cazzo, ho preso, cioè, l'ho aperta e ho buttato la che cosa in terra, l'ho trovato in terra che era, mi stava muovendo, ho preso, l'ho pesata col piede, cazzo. Non so, ma vediamo se è entrata, dove era forse nel tram, non lo so questo, magari la lì mi è entrata là sotto, neanche me ne sono accorto. Perché magari come eri nel tram dal finestrino è entrata, ti si è appoggiata la maglietta e camminelli si sono arrintalenni e già capita già, vero già? No grazie, io non so come ti ammazzo, con il rastico. Io quando marciato dico, ma adesso è il periodo, no? Che cercano il caldo e cercano di entrare dentro la casa. Cavani, raccelato, quattro piccola giubbotti secchi e due api. Avai di sotto che ne rugate per rintanarsi, no, per farsi il nido, capito, per il prossimo anno. E ti depositano le uova, hai capito, ma le hanno ad amare. Le hai seccata prima del tempo, là. Sì, no, e beh, di grassottelli, da rintanare, che sono pieni d'uvi. Se va, se vuole arrusso, eh. E allora, a posto della luce ci metto mosche, api, ah no Antone. Oh Antone, allora sai che su DVD che ho presentato il comando, tutto fatto, come devo fare e non fa, lo sai cosa non funziona che su DVD? Il menu, poi l'ho aperto per la valvolina bruciata, io gliel'ho cambiata solo che era più piccola di potenza. Funziona tutto meno che il menu. Ho capito, funziona il menu di quelle DVD. Se funziona il menu, ma adesso funziona, c'è la tattica. Puoi comandare dai tasti, ma lo comandi dal telecomando, giusto? Oh, non mi fa entrare neanche dal telecomando e neanche dal DVD, no, c'è il pulsantino menu, lo premi e non ti ha nessun segnale. E neanche col telecomando, no, non mi fa entrare. E poi non gira perché non me lo imposta, capito? Non si muove, rimane ferma in inglese e bu. E la diabete che c'era la valvolina bruciata da 50 mi pare che era. Io ne l'ho messa una da 24, nuova, quella del baracchino ci ho messo. Però no, io ho detto, ma non è buono che dalla valvolina, l'ho cambiata, le ho messo quella là, pure se la più piccola dovrebbe funzionare. Funziona tutto meno che il menu, e non è dalla valvolina neanche. Boh, non so, si sarà bruciato da che impreato, di 1:30, perché quando l'ho aperto dentro c'era la valvolina sua, bruciata. Ma non ho di tutti, sono tavere dati, la verità, poi neanche io sono tavere quindi là quel telecomando di quel televisore funziona da una parte e quello, se ti capita un televisore della stessa marca, almeno ce l'hai già pronto il telecomando di riserva. Ah, esatto, l'ho messo da una parte insieme all'altro, perché ne ho uno universale di televisore, e era proprio brutto per il DVD, però funzionato per il televisore. Era tanto verso, lunedì la veduta di Savigurio, a dico, se di più di 10 euro non mi accusa. Cioè, me lo posso dire, però, a poi ascoltare i CD già impostati in italiano. Se ne pongo un altro, per esempio un film US, non sono impostati in italiano. Sono in inglese e funziona Lucia. Funziona, funziona, solo che non scende in italiano. Già capito. Vabbè, cosa vuoi dire? Se ti recupero con magari qualcuno per 10 euro, ti ricevito 10-15 euro, tu lo ci ricevito per i DVD, già te la facciamo bene, completo il telecomando. Nuovo, non cesso. È nuovo questo, solo che non ce l'ha il telecomando, e io da che mi ha detto, ma dice già lo trovo il telecomando. L'ho preso, però non fa, e non è il telecomando, perché funziona addirittura con il telecomando, lo stop, il volume, e tutte quelle frazioni lì, sì. Solo non funziona il menu, ed è dal DVD, non è né dal telecomando, né è dentro il DVD. L'ho aperto, poi vedi, bruciato, non fa gusto. Capace che prima il fusibile si era bruciato ed è passata la corrente oltre, che non ce l'ha fatta a bloccarla e ha continuato a bruciare qualche cosa. Infatti, era domani, il bruciato, oggi domenica, sì? Yeah, confermo. C'è stato da quello di via Mendola, che lui gli ripara le cose di quella marca lì della Unidei. Però dico, se lì da Danuda c'è solo questo problema, se lo dice Dio mi ha costato il mio figlio, anche se lo hanno il mio figlio, costa 50 euro, bello, ho visto da Conforama. 50 euro un DVD, ma se c'è 50 euro, 30 euro, no. È una cosa di marca, tu è bellino anche che si è sticca. Cosa c'entra quello? Sì, ho di DVD che ho, quello che c'ho io l'avessi voluto tu a casa, c'ho il DVD che c'ha la riuscita amplificante, e in pratica gli aggancio nelle casse e gli posso mettere a casa 50 watt, così buffo e tutto, e l'ho trovato una mondetta con il DVD, e lui ha detto mi volevo lavare domini, allora mi sembra che volevano, mi volevo dare 50 euro, non li ho dato. Per niente, c'è un salone senza usare, c'è la radio, c'è il DVD, c'è il... tutto fa, e c'è l'aggancio per il subwoofer, gli aggancio le casse esterne, non c'è bisogno di agganciare nulla, più figurati, manco per bisogno di agganciarli. L'unica cosa è che gli puoi agganciare un monitor di televisore, vedere lì al limite i filmati e basta. Poi lo puoi agganciare sopra al televisore, se la prova scatto lì e la mappa c'è giù. Ma non c'è bisogno di avere gli altri scatto, c'è l'uscita RCA, quindi posso agganciare audio video. E la verificazione ce l'ha già il DVD che ho io, capito? 50 watt esce, ho trovato una mondezza alla cassonetta che c'è in corso, in via Carbolazio. Sono andato a entrare un giorno, che lavoravo allora, quel periodo che lavoravo all'ipodromo. Ma sono entrato questa volta a cosa, dentro la busta, ho detto, guarda, questo mi sembra un DVD. Però ho detto, sta un DVD con la ventola dietro. L'ho acceso, ho visto la ventola girava, ho agganciato le casse e funzionava benissimo, una bomba era. E ce l'ho tuttora lì, ce l'ho qui, tuttora fermo. Ci hanno sino 8-9 anni qua di DVD. Ed è perfetto. Prendi già il cazzo di uno vicino a straccato le palle e ce l'ha buttato, già ce n'è molta gente, non sanno in due da bassini e si rampa, ma... E ce l'ha buttato, sì, evidentemente non si arriva, se no non capiva che era tenuto, ho visto, però il DVD già c'era. Esatto. posso dire domani, qua se chi mi ha detto io posso venire, se non devo darmi la rabbia di questa cellula, poi che me lo tengo a fare, tanto, sai che non mi ricordo di chi in Italia lo giù, cioè già è posta, non è true. Una bomba, guardate, non si esplode mai. Il radio ho visto parte di un film, però sto registrato in inglese e non lo busto, va a funzionare. Fa così, dove già ci sono i DVD in giro, questa è una cazzata. Se la bella è un problema, intanto la giustizia. Vabbè, già sono andato via di tutto, non fare del giro, ma la bella la fanno pure che si dà la niente. Io dico, ma noi con cazzo che hanno la presa, per cazzo di tutto, non va bene. E da me mi ha detto che vogliamo dare il comando, avanti dal comando, la dimenticata non va. Vuol dire che tanti punti. Esatto, vabbè, cosa ne sa lui? Magari ha fatto fugata del comando, cosa ne sa lui? Provato così manualmente, dice, funziona. Quanta gente c'è lì? C'è una fila di raccattori, li avevo visto. Ho dato fatto qualche serie rubato, in epoca ero di roba rubata, era dentro. Matte, c'era di su zingaro braccio con un furgone, con la morire. Anche due femmine, un altro, un zingaro, che allora carica il bocco di notte, questo ci sta rubando anche dalla regia di campagna. E già ho capito che stai dicendo, ora mi stai pensando altro. C'è un furgone grigio metallizzato con i vetri oscurati, è stato grasso a tenno. Poi sta rubando la sinistra regia e la sta rubando la regia. Andiamo e noi ci facciamo un giro, come facciamo una volta a cosa Giuseppe Altamura, che ne ha tancito un baracchino, un dato che ne ha tancito completo con l'altra edicata sua, il cavo, quando è entrato con la vittima tutta bucata nel fianco, a pallini. Magari. Beh, noi abitava, accanto a me abitava proprio. Quando l'ho visto una macchina, ma che è successo? Nulla mi ha detto. Mi sono trovato bucata la macchina. Non è successo niente. Poi sono venuto a sapere da quello che era insieme a che lavorava con lui. E gli avevo perché ha bucato la macchina un pastore che è entrato in casa sua, gli aveva tagliato tutto. Baracchino, antenna, capo, tutto della bingiata. Ma io mi sono pure il mio poco di roba parecchiato io, parecchiato. Da poco mi ero un tipo che stava presentando qua con un furgone. Arrivare, mi ha dato il giornale, ha divisto in fotografia. Stanno là disegnato un furgone carico di accumulatori, batterie, no? E motorini di costruzioni, che io l'avevo la nave stata. Vabbè, io ti parlo negli anni 75-80, ho capito che faceva quel lavoro, scendeva giù, prendeva libri di didattica moderna, quando tu ne saliva tutto carico di roba, lineari, bimuccio 31, ci aveva. Stava attaccatamente nel sito, proprio non era posto a fianco. Perché c'eravamo lì? Io la gamba e lui lo stesso. Dopo sentivo me, io volevo attaccare il bimbo c'è un 31, se non riuscivo a parlarci con lui. La mettavamo vicino. E lui, per carità, animali vedo un tipo buro, carregando i cerchioni, nuovi, non so quelli che ammazzinai. Come se la caricata si era comprata subito male. Magari l'ha dato due città, chissà che dà quanto ve la vendi. Appunto, c'è tutto lì, appunto. Dalla sacca alla roba furata, tutto c'è dove ci trovi, te lo sto dicendo io. Mi amico ha detto che ha trovato la collezione di Romping a 1 euro l'1, se li ha subito comprati Bobo Dylan, Paul McCartney, tutti Romping bellissimi, tutti funzionano bene, bisogna trovare l'occasione. Sì, appunto, bisogna trovare l'occasione e non fregature, più che altro. c'è un po' di roba, la verità è che c'è un po' di roba, però devi stare attento a quello che prendi, capito? Io non sono più tornato da una volta che questo qui stava dalla roba subacquea della mia stazza. Multa, la sacca col fucile, le pinne, tutta la roba a pile. E a me mi interessava. Volevo prendermela, mi sono avvicinato e mi ha mandato via malamente. Mi ha detto che quando ritira la roba non vuole nessuno che guardi. E tu non piglia di lei in culo, binghino su di non si rialza. Per non ascoltare tanto gli stagli da via, chiudono, e non puoi. E la grazia, ma si dicono anche diversamente le cose, capito? Basta dire, no, un attimino che la ritiriamo e poi se gli interessa gliela vendiamo, ecco. Io avrei aspettato dietro quella specie di parapetto che c'è, che hanno messo per non entrare, per non guardare. Io stavo guardando la roba per essere nuova, che mi interessava, capito? Ah, mi ha detto, no, non vado via da lì, che non può stare lì. Qua mi interessa la casa. No, devo andare via. Va bene, mi sono andato. Ehi, parlo anche di canto, canto vedate, no, non hai tu preso. Adesso ti spara, secondo, sempre 5, 10 euro, tu dipende da cosa è, più di 20 euro non ti spara, non ti preoccupare. Non so. Mentre ti ha cassato tutto, ma 25 euro, giusti. E fa cosa? Senti, a 78, ma sono 25 euro l'altro giorno. Per le patate del buio che ho io. 25 euro mi ha dato. Ehi, per dirti, io quando abbiamo portato due di panetto, mi aveva dato 20 euro di panetto. Beh, dovrò poi giocare a stato in campagna, a tornare a fare la stessa roba e va via. L'aveva venduto 50 euro l'uno. Dunque. E lui vede il doppio, lui si fa da non fare nulla, perché non fa di nulla, perché esporre non fa, non si piglia nessun ore, né niente, si fa il doppio della spesa. E poi non sono obbligati neanche a farti lo scontrino, anche la dice, cazzo, poi ti rinunciavi, non manco scontrino, non mi avete mai fatto, ma è cago. Poi noi non siamo obbligati a fare nessun scontrino. Napolitani, compresi. Vedono la mondessa, vedo. Una ragazza di Bari, una cosa aiuta, pulita la roba ordinata là, tutta graffiata, tutta babbavi. Se osservi, Antone, era tutto pieno di televisori, tutta la filata su in alto negli scaffali. Beh, a cosa non per manco un televisore? A Pigi mi ha fatto caso il carico, ce li buca in Africa, ce li vedi. Quello è poco ma sicuro. Ieri quando sono andato non c'era manco un televisore. Calzera bene una che da abbassata. E i marocchini se la comprano i negriti, li ho visti io. Si compra televisori e scarpe. Sì, in due dì si è venduto cosa di buio. Io lavoravo visto un 300, dici televisori minori di tutti sullo scaffale. Da metà fino a giù di là, per tutto il capanno, ma tutta un'opera, tutto televisori di quelli piccoli. È vero. In Senegal li vendono subito quei televisori, e veloci pure. E sono i civitori satellitari. Dove? In Senegal. Io c'ho un triathlon lassù, che ce l'ho fermo. Bello grande, enorme, stereo, tutto grande, si intende, si vede perfettamente. Mia moglie non l'ha più voluto perché era troppo grande. Io c'ho un garage pieno di televisori, si sente interessa, amico. Pieno, detto di televisori, lavatrici, dei frigoriferi. Sono pieno proprio il garage. Tutti da aggiustare? No, tutti funzionanti, insomma, tutti sotto sequestro perché ci deve dare l'affitto. Quindi gli avevo almeno 200 di televisori. Ce n'è uno che è grande, quanto posso dire? Quanto un mobile. Il fatto che non ce lo sollevi neanche col carrello, così come vuoi tu. Capito? Ci vuole il coso per sollevarlo. Di quei televisori i primi che sono usciti. Ma se l'ha fatto capire, vedi qua, vedo te la faccio vedere. Anzi, vieni qui te lo faccio vedere direttamente. Ma questi qui tu te li puoi vendere? prima mi dai soldi e mi deve dare, poi se lui ce lo vuole buttare si mangia, ma le frega sai a me, poi se lui vuole vendere si mangia la riporta la discarica, cosa ne so qui? Se lui porta la povertà lo finisce uno. Non in Emilia, dice che ne ha trucchi, ne volevo portare il mio e mi ha detto che ne ha trucchi. Poi se lo vedi, non mi ce lo compare già di subito. Più di 10 euro non ti dà. Infatti, io ti parlo prima di uscire questi ultimi televisori e cose, quello lì era uno dei, anzi il televisore diciamo che si vedeva e sentiva meglio, è della Sony, il triathlon è della Sony. Io non ce l'ho, è grande, l'abbiamo pagato 1,5 milioni e più 80 euro il carrello. Ed è pesante, mi lo devi pigliare in due, ci fate benissimo il mio. Però se tu glielo porti, più di 20 euro non ti dico. E poi anche stereo, quali sono quei programmi di musica e cose, siete benissimo. Quello che tu è lo stesso, la stessa cosa, è l'occhio, ma se non l'ho mai visto ha cargato tutto di televisione, anche la maggior parte di quei DVD che va via, non ce n'era la multi come l'altro giorno, ce n'era 4 o 5. Ah, guarda, addirittura c'ho quello che legge sia DVD che le cassette, di modo che se tu c'è cassette, c'è film in cassetta, te li puoi ancora vedere. Quanti ne ho visto stato io? Ne ho 4 a casa, buttati. Più 226 cassette ciò. Vabbè, io ho tutta la collezione di Dario Argento, se per questo, tanto è che è una collezione che vale. I film di Dario Argento valgono tutti, Cielo Profondo Rosso, Lucio dalle Piume di Cristallo, Il Gatto a 9 code, Fenomena, Suspiria, tutti quanti ce li ho. Guarda, conservatevi quelli, perché vabbè, adesso non valgono niente, perché quando li ho portati io ho detto, in macchina li ho portati. Quindi quanto mi dai per le cassette? 1 euro, allora fa la cosa, ho detto, ti rincuro, ho detto, 1 euro. Me li porto a casa, me li tengo a casa, e da me non li hanno fatti io. Poi si è completato anche il registratore, ho detto, ne ho 3. Un altro ce l'ho qui, sì, sono 4 registratori, ho 3 DVD. Dovevamo votare da tirare la roba, no, io la roba non ce li butto così, ho detto. Mio fratello mi ha lasciato una motosega dell'Alpine, Alpine, con la lancione. L'ho pagata 700 euro, allora ti parlo di 5 anni prima, la sega gli ha dato solo 100 euro all'anno. C'è Alpine, una buona marca, io ce l'ho stereo Alpine, l'ho passato in tre macchine e tocca sempre come ti la prima di che ci ho comprato, mai sfasciato si è mai. Tu ci ha comprato un portatile, computer portatile, si è affiliato della... adesso mi ricordo che marca è. Si è comprato uno di quelli e un cambio di quella motosega. Avrei saputo di aver cambiato la testa a quella, l'ho fatto 4 volte con la motosega, non di più, in campagna, nuova, fiammante. Ho fatto male a portargliela e gli è venuto in mettere i pedali sul computer, volevo il computer e si è pigliato per il computer portatile. Ma uno che ce l'ha lì stesso? E uno che ce l'ha lì, c'era tutto da qua a casa, cioè, mio fratello non lo sta neanche usando, è buttato qua. Faccio lo là, il computer, non serve a niente, adesso. Dei computer portati, un Acer. E non è buono l'Acer, perché è uno dei migliori che c'è, anch'io c'ho l'Acer. Ed era nuovo, funzionava bene. E la batteria solo è cambiata, lo sai che la batteria con un po' di tempo e costa 80 euro, hai capito, non serve il computer, perché uno ha pagato 100 il computer. No, il computer è il più piccolo del ghiaccio, costa sulle 300 euro, 350, come l'ho pagato io, adesso si è calato il prezzo non lo so, ma io ho preso quello piccolino per mettermi nella stazione. Ne ho altri 4 o 5 di portatili e un ufficio, però io nella mia stazione ho messo quello lì, quello piccolo perché più va meglio. Diciamo che allora costava 3,50 e l'ho preso 2 anni fa. E tu sto dicendo, c'è quest'accia, non lo sta neanche usando. perché la batteria è, non dura molto, dura due ore, due ore e mezzo, non di più, e poi non se ne scende. C'è il wifi, c'è tutto quel computer. Non pago 100 euro salando. Figurati, con la valigetta e tutto. No, ma quelle batterie lì durano così, anche il mio è così, quel tanto lì non dura tanto meno. Poi bisogna attaccare la presa, basta che tu che lui lo usi con la cosa attaccata, con la corrente attaccata, i problemi non ne ha. Ti carica per mentre puoi anche usarlo. Forse vuole comprare un notebook, mi ha detto stamattina. Dice, boh, vedi, c'è qualcuno vuole, non adesso qua. Vuole anche la, vabbè, di cosa vuole il wifi, non lo, da agganciare esterno, non se ne fa niente nessuno, ha pagato 20 euro, quindi c'è lì di max agganciato. Ed è buono, quando ho comprato la GBC, solo che wifi, c'è il wifi interno, c'è il Bluetooth, c'è tutto questo computer, già lo sai più di me. Sta pagato. E vabbè, comunque uno poi si stufa, a volte per denaro poi si stufa, ma prenderlo 100 euro è troppo poco secondo me, perché sono, non ha niente di la batteria, perché dura quel tanto lì, anche il mio che è nuovo dura quel tanto, io poi attacco la corrente e via. Ma sono da dirti, lui non capisce un cazzo da verità, e quindi io non faccio niente, io ho il 21-4, c'ho il 21-3, anzi forse quello, il 21-3 adesso, la Giuseppe, no? Così se lo utilizza lui, come computer, e si compra la, il monitor, se non è stato un garage, il computer è buono, così quindi... non faccio niente, c'è un sacco di roba, capito? E infatti, tanto è tutta roba che ti metti in casa e poi non usi e fai più mondo e sa ghiasso. Io già ce l'ho tutto bello ordinato, c'è il mobile, ce l'ho dentro. Lo muovo solo una volta, perché una volta mi arriva il cucino così posso fumare una sigaretta e me lo accendo. E via. Ma se no lo lascio sempre attaccato alla corrente. Meglio così che andare graziano. Non so cosa farmi dire, ma c'era mia figlia e lei è tratta un galascio, fa un tablet e usa quella adesso. Il tablet l'ho regalato a mio nipote, io ho pagato 50 euro, costava 120, mi aveva dato mio fratello, mi ha costato una settimana, ma 50 euro, ho preso, ho fatto regalo all'Alessia, faceva delle legge, ho messo poca roba, caffè, programmi strani, addirittura anche video telefonale, con ha scaricato il programma della FE. Noi tranquillamente va qui, fa la videotelefonata, come se fosse al telefono, cazzo. Mi sono mangiato le mani, la verità, va. E poi avrei saputo che dovrei essere tenuto io così com'era. E invece l'ho regalata lì, ho fatto l'iPhone, vero. Io lo uso in famiglia, lo uso. E si diverte. E c'era tutto là il tablet, funziona. Ce l'ha più di due anni, figurati. Il media ha pigliato 7 pollici. Android, ma era fenomenale, tutto faceva. Allora, sì, quindi non crepo, ma lo crepo bene, sì. Certo che mi crepi, caro, certo che mi crepi, molto comico. Certo, Ma non ti ho lasciato parlare. Lo so, non ti preoccupare. A me poi, insomma, quando vuoi, caro, già lo sai, che già ci vediamo sempre. Per carità, Gianni. E a ti dà, buonasera, sera. Cavagato, adesso è arrivata mia moglie, vuole riposarsi, devo chiudere, mi dispiace, ma devo rispettare anche degli altri, dai. Campana, ti saluto, Dio, ti saluto anche tutti gli altri amici, dai, magari sentiamo più tardi. Ehi, dai, già, no, sono entrato giusto così a salutarvi, anche io vado a fare una pennichella, che ho finito... di caricare le batterie. A prima mi sono morto e poi fa la pennichella. No, adesso guarda, vedrai quando sono morto, vengo tutte le notti e ti sveglio. No, non lo farei, sono entrato giusto a salutarvi, dai. Niente di che, riprendetevela, già sono in corrix. Sì, d'accordo, Tino. Saluto anche a te. Graziano. C'era quella bruttona di mia zia e basta. Chi ce l'ha fatto la fare? Facciamo la carriera da amici. Ma quali amici, quali amici? Gli amici solo quando li presti roba. La verità, a me non ti ha fatto niente ancora. O se vuoi, mi puoi portare cosa ti posso dire? O un abito per farlo mi sposo. Mi fa anche bene, guarda, almeno vieni e mi fai la testimone. Via. Amici, a voi. Chi siete? Quanti siete? Noi. Siamo tutti noi. Cioè, io, Antonello, tu e Rose. Bobo, sempre piena la frequenza. Vabbè, me ne vado, ciao. Addio, vado a mangiare la frutta. Avete parlato in due, ovviamente è passato Gianni, avanti il Pomponio. Sono Gianni, non può essere, no, mi ritiro la vecchiaia, io passano tutti con questa antenna, non può essere. Aspetta che io sono attenuato adesso, metti portante muta e ti dico quanto è il tuo segnale e quanto è quello di Gianni attenuati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vabbè, sono lì con quello che stai vedendo perché c'ho io, già lo sai, se no... Come avete passato? Pensate, ho passato anche la pennacchia. Allora, Pomponio attenuato di 20 dB e Santiago 8,8 e Gianni 9,5. Bene, allora, come ho passato anche la pennacchia, quindi figurati. Chissà che riusciamo a raggiare con gli antenori in questi giorni che è Budapest. Ma sei anche veggente adesso, cosa ne sai chi è? L'ho sentito la tazzone, capito? Sono sempre come me che di porco, ho comprato il Baofeng, portatile. Il Baofeng ha delle cose che non vanno bene. Praticamente con le antenne esterne hanno battimento zero e non ricevono più, prova fatta da me. Invece i Vauxhall costano anche più del doppio, però colpi con quelli non li prendi, puoi mettere anche l'antenna esterna. No, no, già va bene, ci mettiamo quella, cosa vuoi dire? Al primo momento già mi basta con la TV, vabbè. Vabbè, adesso continuate che devo mangiare la frutta, io non mi fate inquietare. Guarda, domicolino lui. Ciao, fame, ciao. Aiutatevi una banana a Marco che deve mangiare la frutta. Mi, è proprio la banana mi stavo mangiando, banana con la Nutella sopra. Colato, capito? Via. Perché voi non l'avete mai mangiato banana e Nutella? È eccellente. Sono anche le crepe banana e Nutella, sono veramente buone. No, mai mangiato. Alghero le facevano, tanti anni fa. Nel 2005-2006 eravamo andati con un gruppo di persone e c'era questa bancarella che faceva le crepe come le volevi tu. Sia salate che dolci, tra cui anche Nutella e banane, ottime, però grandi, sembravano delle pizze piegate. Vabbè, riprendete che vado a infilarmi la banana in bocca. Quanto ci vuole benessere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ingoiatela. Gianni. Oh, avete sentito Luca del Monte? Ciao. Vabbè, se non lo sento magari il telefono più tardi. Ok. Chiamalo più tardi, tanto già a casa lui. Yeah. Ascolta, già l'altra notte stavo parlando, poi non avevi risposto. E ho lasciato bianco, non ho sentito nessuno, e poi l'ho spento dopo un po'. Sei zombito. Tipo così, mi. Lo chiami, non risponde. Lui rimane bianco, niente, non riprende più. Si è addormentato. Ma il baracchino non è per dormire, è per parlare. Quanti fate ciò piuttosto? Sono pochi. Addirittura 5 watt, è freddo l'apparato ed ha solo 5 watt. Quando è caldo, caldo, 15, l'ho regolato così. Già va bene. Ma già tranquillo, poi già ci vediamo, se vuoi uscire. Così è. Antonio, comunque, qua, a parte il 5 che è più disturbato, io non sento il QRM che sentivi tu. Tutti lamentavi che sentivi il QRM a 9, ma non è che era per via di quel traliccio dell'alta tensione che è vicino, è un passo. No, quando qua a casa ti rendi conto, Vasso, non c'è bisogno di te lo spiego io, no? Io sai quel baracchino che c'era, l'hai sentito l'altro giorno, col parli più 3. Esce veramente bene, sono veramente contento, hanno fatto un bel lavoro. Quindi, lo sto dicendo, rende parecchio. Sono stato molto contento di averlo dato, la verità. Lasciate bianco, eh? Azione c'è. Eccomi, stavo controllando, oggi c'è più QRM per via di attività elettrica in aria, almeno così sembra. Qui è Santiago 5 il QRM, è uno scandalo il 5, invece sull'1 per esempio, sul canale 1 è Santiago 1 per dire, no? Se vai sugli altri canali lo stesso è calmo, il 5 è sempre il peggiore, appena c'è un po' di propagazione si riempie di casino. Io già lo so, ho avuto più di 10 anni con l'apparecchio, cioè io ho avuto se 80, tu c'è l'altro, io avevo l'applicatore di antenna, quindi se tu c'è l'applicatore di antenna vedrai la differenza che c'è di ricezione. Ma chi l'ha preso l'apparato, si può dire? L'ho sentito l'altro giorno, si ascolto, su 14, col panno più 3. Ma io sul 14 non sto più andandomi. C'eravamo a Stefano, col canale più 3, ma tu vuoi sentire come usciva il radio? Ah, col partner, meglio di così, vedi un po', meglio di così usciva. Se tu lo senti, la prossima volta che vieni a Sassari, ti metti le mani in testa, te lo dico io, col microfono canale più 3. Io mi accontento. Hola, ok. Vabbè, fammi finire, dai, se no questa banana mi tocca, no? Hai capito? Succhiarla. Ah, che porco. Ciuccio. Sembra a posto. Ciao Marco, buonasera, ben entrato. È già finita la banana? Sì, è finita la banana, è entrata tutta. Buonasera, chi è? Il signor Gigi Vulcano. Positivo, ciao Marco. Cappa, siamo quattro gatti, prima c'era più gente, adesso sono andati a riposare. Positivo. Tony, lo sai quello che è successo oggi nei Giappone? No, dimmi. Bene, Gippo, ma sei tutta la giornata per violina, venerdì no? La verità non so niente, va bene, non riguardo niente la giornata per violina, non c'ho neanche tempo. Figurati tu, tra mamma e il coso. Diventavo quasi ogni notte e mezzanotte io mi... Devo mettere la mamma a letto, devo fare la letto con la vana, fargli le cose, mamma non la gioca più come prima. E quindi mi tocca fare bene. Quando vado a lavorare mi tocca fare il barman, cioè il bambinaio. Cosa è successo a Gianni? Mi dispiace che è successo qualcosa di grave, la verità. Perché un amico almeno. Positivo, è andato da lì a Torcari per soppresso a caricare. E non so, ci stava piovendo, era una discesa ripida e molto ripida, e cosa ha fatto? Se ne è sceso deve sempre aprire, non so, la sponda idraulica, così, e non ha retto il camion e ci è scivolato strisciando sopra l'asfalto le gomme e ce l'ha schiacciato tra il muro della casa e la ricezione. Il cazzo, ma c'è vivo però, sì. Sì, è riuscito, lui è riuscito, ho parlato con la moglie ieri, lui è riuscito a scartare la testa, la testa del parte del torace è riuscita a fuori dal montante, però tutto il resto l'ha preso, capito? Schiacciato tutto bacino, ha fratturato tutto, capito? Schiacciato tutto sotto. E niente, ho dovuto buttare giù il muro, il muro, questo muro a brocchetti della recinzione, ho dovuto buttarne giù per toglierlo, per liberarlo. Ah, mi dispiace, non mi dispiace la verità. Aspetta, mi sono veramente un amico, cazzo lui. Cioè, scupito era. Oramai. Sei mesi di ho detto di su all'ospedale lui. Se si era fatto troppo bacino, dolori ci aveva a sopportare come Pier Andrea. Abbiamo ricordato da Pier Andrea quando aveva avuto l'incidente. Tutto ingessato era dal tappeto in giù, c'era solo il buco, poi andava a cagare e pisciare, basta, ciao. Positivo, dai, io ho parlato con la moglie ieri e niente, a Nuoro e niente, allora ancora non sapeva solamente questo, però lui riesce a muovere le dita delle mani, ma le braccia non le solleva, non le solleva, capito? Ancora è tutto da... non lo so, oggi non so nulla perché penso che oggi non abbiano... io ho sentito ieri mattina perché è successo venerdì, ho chiamato la moglie ed era lì a Nuoro all'ospedale, mi ha detto queste cose. E niente, che le mani sì, le dita le muove, anche se non ho avuto nulla, diciamo, sopra, però sicuramente del bacino è qualcosa alla spina, tutto collegato alla spina rossa, non lo so, dai. Non lo so, le dita le muove ma le braccia no, capito? Però lui è cosciente di tutto e poi c'è un sacco di fratture, capito? No, invece non ho fatto vedere pure la videolina, io non l'ho vista, te che mi squilla. Mi dispiace parecchio la verità qua, mi dispiace parecchio, era un amico, veramente un amico lui. Se non so se ci sei andato a trovarlo, ma poi dato tua subito a faccia e ci sei andato subito, la verità. Mi dispiace parecchio. Bella roba. È brutto, cazzo, brutto, brutto, quella così. Se ti schiacci accanto alla... c'è il torace apposta e ti schiacci il bacino. Sei mesi ti... come Pier Andrea se te li fai subito. Gesso, sofferenze insomma, sofferenze parecchie, adesso qualcosa quando era accaduto a Pier Andrea e ha ricordato oggi quella volta che aveva ucciso una persona, meno male non c'ero io la verità, perché io quel giorno meno male, per fortuna, e lui ci vedi come andiamo a Uber, dice, c'è la gara in vela, e non ci sono andato, so se è stato anche quel voto, quello c'è, è stato Mimmo morto. Un po' ci sei che no, di la terra. Sì, sono qua. No, da sui cosa, sai, no, non sai niente, solo lo spray nudo, lascialo. Allora, mi stava dicendo la moglie perché se no, lei non può andare da Sassari, vabbè che abita pure a Pisi a Nuoro. Adesso vedono un po' quando lo ingessano una cosa, se riesce, non lo so, a farsi altra. Ma penso che se tutto è a posto una volta che li ingessano, io penso che lo mandino a casa ingessato come o tengono all'ospedale, cosa dici tu? Oh, il cazzo, no, tu sei, no, se te lo tengo all'ospedale, se c'è un bacino fatturato, capito, Pier Andrea l'ho avuto quasi, sono sei mesi, mi sembra che erano otto, una cosa del genere, avevamo dato tutti i cibi di Sassari, siamo andati a trovarlo, lo sto dicendo, no, non è così come pensi tu, no, l'unica cosa che non posso fare, dimmi, te lo trasferisco a Sassari, se lo posso trasferire, bisogna vedere come, se si può fare oppure no, capito? Se non bisogna andare a Nuoro, comunque per andare da Olbia, cioè avevo avuto un incidente lì, l'avevo lasciato via Olbia, siamo andati noi a Olbia, allo stadio di Olbia, a trovarlo, la verità, quindi non so se lo posso trasferire, la verità, È molto, molto difficile, con quello che ha fatto vedere Ciara, non penso che dicendo che chiedeva se lo potevano trasferire a Sassaro, Alghero, più vicino qua, dai. A Sassaro, Alghero doveva chiedere ai professori a Nuoro e se lo facevano trasferire. Come fa questo a viaggiare, ad andare sempre a Nuoro, è lontano, è mio casino. È un casotto, mi è piaciuto per Gianni, quando me l'hanno detto, mi hanno chiamato e me l'hanno detto, poi la sera, dai, mi hanno detto la sera sul presto, e poi mi ha chiamato Mario, il collega, che dice, ma guarda che hanno fatto vedere a Gianni, che lui fa Gianni Nurra, Gianni Gippone, dice, il telegiornale, dice, ha avuto questo incidente, ho detto, già lo so, ho saputo tutto, e l'avevano fatto vedere pure la videolina, l'hanno capito. Sai che devo fare una prova, una cosa, al limite, se siete qua riprendo fra un pochettino, Antone. Io vabbè, sono qua, non ti preoccupare, per quello. Mi dispiace parecchio per Gianni, la verità, è una persona che ho scoperto 20 anni, e mi dispiace parecchio, è l'amico. Se non sono ancora qua ci vado a trovarlo, ma a lui è un casino, a me lo trovo, ci organizziamo a trovarlo, come ho fatto con Pier Andrea, quella volta a Olbia, che ha ricordato Olbia, siamo andati in 7-8 cibi, siamo andati e siamo organizzati a trovarlo, non so, se vediamo un po' come, se vedi tu, se c'è qualche cosa in più di me, perché io ho il numero di telefono della moglie, non ho soltanto quello, il suo di Gianni, quindi vedi tu, al limite, se rimane a Olbia andiamo a trovarlo al limite un sabato o domenica, andiamo a trovarlo lì a cosa Nuoro, mettiamo un po' di qualcosa, poi andiamo su un pullman, non lo so, andiamo a trovare un pullman e poi se lavoro qua, cosa vuoi dire io, altro si può fare. Positivo, no, io ho provato, quantomeno per rispondere a qualcuno al numero di telefono suo, al suo numero ho chiamato, io al telefonino suo e mi ha risposto la moglie, capito, era lì all'ospedale, ho provato e mi ha risposto la moglie al telefonino, perché c'era la moglie al telefonino e mi ha risposto di la verità la moglie, però mi ha detto se lui era... Lo sentivo che parlava, però dice che aveva le mani, sì, però le braccia, aveva problemi con le braccia, capito? Però le mani, sì, le dita, voglio dire, le stringeva, però non poteva mangiare, né aiutarsi, bisognava imboccarlo, mi sia bere, queste cose, perché non poteva sollevare le braccia. Vabbè, se muove le mani è un buon segno comunque, la verità, se muove le mani è un buon segno, quindi vuol dire che è una cosa, un trauma provvisorio, più che altro, fregatene, già è tranquillo, quindi non ci sono problemi. Può essere anche i dolori, non lo so, io ho detto il bacino, però lui so che ha salvato è riuscito a salvarsi la testa, quanto ha dichiarato, lui è riuscito a togliere dal montante di dietro, no? Quando stava scendendo, lui è andato a aprire la sponda, mi pare c'è così nel fianco. E questo muro ce l'ha incastrato, non potevano spostare il camion, perché se spostavano il camion lo schiacciavano ancora di più, che lui ha schiacciato, l'aveva preso di fianco il camion, di fianco e l'ha schiacciato, se tirava il camion avanti, a lui lo tagliava in due, lo tracciava, hai capito? E allora hanno dovuto abbattere il muro, buttare giù il muro a blocchetti. Ho preso veramente una bella passata, ho preso questa volta. Positivo, al limite ci sentiamo dopo se quello è un problema. Ok, se c'è qualcosa, se vogliamo organizzare al limite dimmi, non c'è problema, scendiamo giù a Nuoro e lo troviamo, no? Per me non costa niente, la verità. Vedi tu, se c'è qualcosa in più di me, vabbè, se io non c'ho neanche il numero di telefono della moglie addirittura, quindi non so cosa dire. Comunque, vedi tu, interessati tu, se per caso ci lasciamo andare a trovarlo, io problemi non ne ho, scendo e scendiamo e lo troviamo, non costa niente, pigliare un puma all'altro, scendere lì e passare un paio d'ore, quello che è, due, e poi pigliare un altro puma e salire in su. No, poi domani già chiedo nuovamente, domani mi informo, faccio chiamo nuovamente, mi informo domani, capito? Chiedo, richiamo nuovamente, infatti l'ho già detto, ci sentivamo in contatto e richiamavo lunedì per sapere novità se gli accettavano questo trasferimento, trasferirlo a Sassari o no. detto che ti chiedo un richiamo domani, non mi dai, perché detto che sabato e domenica, non so, i professori già lo controllano, perché giustamente già lui è un caso urgente, giustamente sono sabato e domenica, se c'è bisogno di operare anche domenica, poi se devono fare qualche intervento, questo non lo so. Questo non lo so ancora, so che è una cosa molto lunga, che l'ha detto anche la moglie, che è una cosa molto lunga, che dovrà stare molto immobile, fermo, questo lo sa già, l'ha già detto la moglie, gliel'hanno già detto, vabbè dai, l'invitate e faccio sapere, dai, tanto ci avremo, domani devo chiamare, sono rimasto d'accordo così per sapere notizie, chiamavo domani. Andrà bene, dai, ti saluto ancora. Comunque quel bacino sono minimo 6 mesi, perché per andare così si era fatto 6 mesi quel bacino, era tutto un cessato e quindi aspetta in giunta, perché per andare così la stessa indica cosa l'ho avuto con l'incidente. Vabbè, se non trasferisco la sassa mi fanno sapere, al limite si va a trovare più in fretta, se al limite rimane lì che non possono spostarlo, ma penso di sì. Comunque se non è così grave, lo trasferisco a Sassari, fammi sapere qualcosa, almeno andiamo a trovarlo. Se è limite e dobbiamo trovarlo a nulla, dimmelo e non c'è problema. Andiamo assieme e andiamo a trovarlo, non mi costa niente a me. Positivo, ci sentiamo al limite dopo, devo fare una prova, una cosa. D'accordo Luigi, ti ringrazio per averlo detto, ma non sono niente la verità, perché stavo andando poco al baracchino, perché stavo lavorando, quindi non avevo tempo di niente di entrarci. Sono contento che me l'hai detto e non sono neanche niente. Di farmi sapere qualcosa, se ce la scende scendiamo assieme, un sabato, domenica, quello che non costa niente, a me non è la città che vuole essere un cazzo, capito? Intanto è andato con una persona, un amico. E sono sempre un amico con me, quindi non c'è problema. Senti, ma non sa quasi nessuno, l'ho detto a te, lo sa Massimiliano, Bulldoz e niente, non è che lo sanno, non lo sanno neanche altri, da dire la verità, neanche a Claudio, perché anche Claudio lo conosce. E niente, dai, l'ho detto a te perché so che vi conoscete, adesso lo infatti io ho acceso ieri, ma non sentivo nessuno, ma lo volevo dire in radio, che molti già lo conoscono, Gio Maria e cosa, tanti già lo conoscono, già che c'è da tanto, un baracchino. E niente, dai, allora, comunque se senti qualcuno, Claudio, cosa, glielo dici che è successa questa cosa a Gianni. E niente, dai, allora, ci sentiamo dopo, che devo fare una questa prova. D'accordo, ti ringrazio per le informazioni, non c'è problema. Già sono qua al limite dell'ascolto, non c'è problema. Ora, attenzione su 5. Beh, uscia a porco. No, Antonio. Beh, come stai? Sta a posto, sì. Cappa, giù. Tutto bene, grazie a Dio, meno male. Meno quello, grazie. Vabbè, è successo a Gianni di Corso, quello di Ittiri. Quello di Ittiri, cipone, quella di Ittiri, è un cipone colorittissimo di Ittiri. Vabbè, cosa è successo? Ha avuto un incidente. E ha fatto adesso cosa? L'incidente è rimasto, cioè ricordato via la cosa, la faccia scudura, messa. E qui c'è un sacco di fratture. Poi c'è il vivo, grazie a Dio. A capa. Vabbè. Ma sulla 131, no? E a nuovo. Ho capito. Sta scaricando e finisce sul camion addosso. Allucinante. E quindi è incasinato adesso. E tu come va? Tutto a posto? Potrebbe andare meglio, vabbè. Ma tu non hai credito al telefono? Sì che ce l'ho. E fammi uno squillo, forse così una cosa, dai. Ok, non c'è problema. Ti volevo chiamare la verità perché ti ho fatto via poco fa. Perché mi si è incasinato il computer. E quindi ho trovato Adriano e ho detto cosa mi è successo e mi ha detto di portarglielo, ma non so se era, ho fatto un giorno, e parlo, non faccio mica poi, ti voglio dire una cosa, dai. Sì, ok, non c'è problema, lo faccio subito, al limite, non costa niente. Se non fa la mattina, vai a vedere come stavi, sei tranquilla, vedi una qualcosa, solo che poi ho perso tempo che ho, la mamma ha lavato la cucina, ha lavato i pavimenti, cosa già lo sai che... quindi bisogna stare sentata addosso a mamma a un certo punto, quindi non ho avuto tempo, solo che avrei chiamato prima, perlomeno. Scappa, dai, vabbè, dai, aspetta la tua telefonata, dai. Se ti chiamo subito, due minuti, faccio una fischiata e ti chiamo. Sì, scappa, dai, non c'è problema.